eccomi a voi, tutto è disposto. Questo è il vero Gioas, servato al trono per divino consiglio del regio troppo antico e quell'unico germe, il braccio in cui questo sempre appari segno vermiglio. Ma che vira nascendo il di primiero